Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo arrivati al secondo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Anche oggi una voce nuova con il presidente Carlo Garofolini, meritatamente in vacanza. Oggi lo spazio è con l'avvocato Maria Grazia Cangemi, che è dell'ufficio legale dell'Adico. Benvenuta a Blu Radio Veneto, avvocato Cangemi. Grazie mille, buongiorno. Parliamo di viaggi, siamo ormai alla fine di agosto, molti le vacanze le hanno fatte, molti devono ancora farle, vale la pena ripetere alcuni consigli, soprattutto per i voli aerei, a partire da una vicenda che avete affrontato, state affrontando, un volo di circa un mese fa, metà di luglio, che ha avuto alcune problematiche. Vuole riassumerci il fatto? Sì, dunque, allora si è rivolta al nostro sportello Vacanza Informata, un nostro socio, il quale ha raccontato questa disavventura. Praticamente dovevano partire alle ore 9.05 dall'aeroporto di Abu Dhabi per essere in Italia, precisamente all'aeroporto Marco Polo, alle 13.30. E racconta il nostro socio che lui, sua moglie e la figlia di 6 anni si presentano alle 8.35 per imbarcarsi sul volo per Venezia e salgono sull'aereo. Alle 9 il comandante annuncia un primo ritardo, alle 9.20 fa un annuncio dove appunto comunica che si è rotto il portellone dei bagagli a causa di un'operazione errata di chi guidava il veicolo per il carico delle valigie. Sembra un po' fantoziana come vicenda, però esatto, è reale. Sì. Esattamente, è reale. Già il nostro socio era un po' insospettito perché comunque quell'aereo era semi vuoto, quindi iniziamo un po' a insospettirsi. Sta di fatto che tutti i passeggeri vengono trasferiti in un aereo vicino a quello loro. Nel momento in cui salgono su questo aereo si accorgono che l'aereo che avevano appena lasciato stavano salendo degli altri passeggeri, quindi mi hanno chiesto delle spiegazioni agli assistenti di volo, il quale dicevano che il velivolo rotto era in realtà quello che era diretto a Roma, quindi appare che c'era già un errore di aereo in partenza. Sto di fatto che comunque l'aereo parte e arrivano alle 10.15, ma a Milano, quindi anziché arrivare all'aeroporto Marco Polo di Venezia arrivano a Milano, quindi alle 15 atterrano a Malpensa e da lì insomma inizia un po' una lotta per avere un po' un panino e qualcosa da bere. Dopodiché sono costretta ad affrontare un viaggio di 5 ore in autobus per raggiungere la destinazione finale. Quindi si sono rivolti al nostro sportello per avere le opportune tutele. Quindi invece di 4 ore, quasi 12, insomma, di spostamento con anche queste incomprensioni in partenza da Abu Dhabi. Appunto, sono rivolti a voi, ricordiamo che sul sito associazionedifesaconsumatori.it c'è l'apposita sezione vacanza informata, che poi ovviamente è raggiungibile anche nella sede di Mestre dell'associazione. Voi come avete proceduto? Allora, abbiamo inviato una diffida alla compagnia aerea chiedendo un risarcimento del danno, quindi adesso aspetteremo il loro riscontro e vedremo un attimo che cosa riterranno opportuno fare, dopodiché si faranno le opportune valutazioni del caso. A cosa si può puntare? Al rimborso totale del biglietto o in seconda battuta a cos'altro? Allora, le tutele sono differenti in base alle problematiche. Le tutele comunitarie riguardano il ritardo prolungato del volo, quindi sia quando la partenza dell'aereo è ritardata rispetto all'orario previsto, piuttosto che la cancellazione del volo, che sia appunto quando il volo non parte, e il negato imbarco overbooking, dove il passeggero non viene imbarcato a causa di un eccessivo numero di prenotazioni. Quindi caso per caso poi vengono approntate delle determinate tutele. In questo caso abbiamo un ritardo di almeno 5 ore, quindi il nostro socio ha diritto ad avere intanto doveva avere sul posto un'assistenza, quindi pasti e bevande, un'adeguata sistemazione in albergo qualora fosse stato comprensivo di notte. E comunque ha diritto al rimborso del biglietto e delle altre tutele. Poi bisogna poi vedere un attimo caso per caso se ha diritto a un risarcimento del danno, provare il danno, comunque di certo il rimborso del biglietto sicuramente. In base poi anche al tipo di acquisto che aveva fatto per il volo, se era solo il volo, se c'era l'assicurazione, se c'era la tutela sui bagagli, insomma c'era tutta una serie di variabili che dipendono effettivamente da caso a caso. Quindi sì, la vicenda la seguirete. Certo è stato spiacevole, magari visto da Abu Dhabi, Milano è vicino a Venezia, così proprio non è, anche se la distanza non è impossibile da coprire, però il disagio ovviamente c'è stato anche per una serie di programmazioni di rientro. Quali consigli possiamo dare prima di partire, soprattutto per viaggi aerei, e poi nel caso che questa cosa si verifichi prima del rientro, quindi anche in un paese straniero, magari anche con difficoltà di comunicazione con la compagnia? Allora, intanto bisogna sempre leggere il contratto che si va a stipulare con la compagnia aerea e vedere se state sottoscrivendo anche delle assicurazioni, perché ovviamente se si sottoscrivono delle assicurazioni ovviamente ci saranno maggiori tutele sia per quanto riguarda il volo sia per quanto riguarda anche i bagagli. Poi fortunatamente le grandi compagnie aeree comunque hanno dei desk all'interno degli aeroporti principali, quindi nel momento in cui ci si trova davanti ad una problematica, fare immediatamente riferimento alla compagnia aerea. Dopodiché sicuramente tenere a portata di mano il telefono della compagnia aerea qualora non fosse presente il desk, in modo tale da riuscire ad avere tutti gli indirizzi o comunque le soluzioni diciamo in pronta consegna, quindi immediatamente. Poi al momento del rientro si potranno fare tutte le valutazioni, chiedere delle tutele maggiori o delle specifiche anche all'ENAC, che è l'Ente Nazionale Aviazione Civile, che si trova in ogni aeroporto italiano. Certo. Esatto. E poi mal che vada, insomma, all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Esatto. Noi ringraziamo allora l'avvocato Maria Grazia Cangemi per questo intervento. Buona giornata. Buona giornata a voi. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.